Per lei non ci sarà più sofferenza, perché è svanita a questo mondo, immersa nel profondo mistero dell'assenza. Ieri seminò la semente che oggi fiorisce e dà frutto. Ieri seminò la semente che oggi fiorisce e dà frutto. Grazie alla vita che mi ha dato tanto. Mi ha dato due luci. Quando le accendo distingo a perfezione il bianco e il nero e in alto, nel cielo, l'incanto stellato. Grazie alla vita che mi ha dato tanto. Mi ha dato l'udito che in tutto il suo raggio registra notte e giorno e grilli e canarini, martelli, turbine e voci, latrati ed uragani. Grazie alla vita che mi ha dato tanto. Mi ha dato di che marciare con le mie gambe stanche. Con loro ho attraversato le città e le piogge, i deserti e le spiagge e montagne e pianure. Grazie alla vita che mi ha dato tanto. E poi mi ha dato il riso. E poi mi ha dato il pianto, così che io distingua la gioia dal tormento, le due concrete essenze che formano il mio canto, e il vostro canto, che è lo stesso canto, ed il canto di tutti, che è il mio stesso canto.